noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il nostro obiettivo deve essere quello di fischio d'inizio, prendiamo in mano la partita e la perdiamo di mano quando i fischi sono tre. E non sono molto soddisfatto di averlo visto nelle ultime due partite, perché sono partite che abbiamo messo a posto, ma prima o poi ci lasceremo le penne. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Cross di Stepanenko, profondo, Reina vuoto, ha raddoppiato proprio e Ciucchi Ferreira. Like my father. Abbiamo avuto qualche buona occasione, non l'abbiamo sfruttata al meglio. Peccato che alla fine qualche occasione la potevamo pareggiare, però ti ripeto, abbiamo perso, ora abbassiamo la testa, continuiamo a lavorare di più e cercheremo di migliorare negli errori commessi questa sera. Milik dal dischetto di fronte a Piatov. Milik, ricorsa letta, sinistro che spiazza Piatov, la riapre il Napoli. Driss è un giocatore straordinario, non ne facciamo volentieri a meno, però Driss è uno scattista, è un giocatore che ha bisogno di freschezza, non è un giocatore che può fare 50-55 partite in una stagione. Perdonatemi, io stavo ascoltando Wake Me Up When September Ends, Green Day. Grazie Gianmarco Ferronato in regia, Giorgio De Luca, il nostro autore. Tutto il resto lo sapevo già da ieri sera, quindi concedetemi questo pezzone. Svegliatemi quando finisce settembre, sì. Forse adesso è meglio dormire dopo questa due giorni italiana di Champions League. Pierluigi Pardo sta arrivando, quindi abbiamo questo melting pot tra Pardo al telefono e un Pardo di cui vi farò la telecronaca al suo ingresso. Giusto, Pier? Sì, sto arrivando in mezzo al traffico. Dove stai? Sono d'accordo sul pezzone, sto... Non lontano, 7-8 minuti. Bene, 7-8 minuti. Taxi. Da dove partiamo? Da Mertens? Partiamo da Antonio Tarri. Giordano. Corriere dello Sport. Eccomi qua, ragazzi. Buongiorno, bene. Allora, la colonna sonora che ti ha appena regalato, speriamo che il Napoli e gli italiani si sveglino prima. Wake me up when September ends. Di cosa stiamo parlando? Senta, professor Giordano, è il caso di fare un processo a una squadra che non perdeva? Allora, Giorgio Luca, tifoso del Napoli, mi ha fatto la statistica, non perdeva dalla partita con il Real Madrid a marzo 1-3. Ne ha vinte 15, 15 vinte, 2 pareggiate, una persa, cioè quella di ieri sera. Facciamo processo? No, assolutamente no, però analizziamo. Altrimenti è apologia di sarrismo. No, io non faccio apologia di niente. Prendo atto dei tre schiaffi presi dalla Juventus a Barcellona che Pardo ha raccontato. Prendo atto dello 0-0 con Allison e Fortuna della Roma in casa con l'Atletico Madrid, prendo atto della sconfitta del Napoli di ieri sera. Questi sono i fatti, poi analizziamo pure, Antonio. Sì, devo dire che è il più brutto Napoli dell'epoca di Sarri, dal punto di vista non dello spettacolo, dal punto di vista mentale, direi celebrare. Cioè, c'è una squadra che ha interpretato la partita come avrebbe dovuto interpretarla. Avrebbe detto Pesola, la buonanima, mi hanno rubato la idea. E infatti è stato così dal primo minuto, sì. E per lunghi tratti, per mezz'ora in maniera netta, poi con una fase vuota di una decina di minuti in cui il Napoli è riuscito ad uscire dal guscio e poi di nuovo tanto Shakhtar, che è una bella squadra, una grande squadra che gioca molto in maniera molto offensiva, che gioca, ma questo lo sapevamo tutti già dalla vigilia, no? L'abbiamo detto ieri. E però è chiaro che il Napoli ora si porta presso una serie di interrogativi, su due dei quali non si può sorvolare. Uno, si può fare a meno di Mertens? Non si può fare a meno di Mertens. assolutamente, perché è un giocatore che sposta, ma anche perché i valori. Scusa Antonio, qui condivido la, insomma, l'informativa con Pierluigi Pardo e con i nostri ascoltatori 800240024. Il Napoli ha imparato a giocare in questa maniera l'anno scorso, torniamo indietro di 12 mesi. Dinamo Kiev, esordio in Champions League, doppietta di Milik contro la Dinamo Kiev, il Napoli che giocava in un'altra maniera perché si era allenato a giocare in un'altra maniera, certo. Milik si spacca, il Napoli va alla formula dei tre, Bassotti davanti, palla per terra e correteci dietro. Ieri sera torniamo all'antico, cioè torniamo a una squadra cui il Napoli forse non è ancora abituato, sì, giusto? E nella quale forse Milik neanche si abitua più per ora, ecco. Beh, variante tattica, bisogna essere bravi anche a cambiare pelle, no? No, ma questo, guarda, questo io sono d'accordissimo con Sarri, cioè, anzi rivendico questa cosa, nel senso che secondo me 55 partite senza recuperare Milik in maniera decisiva, cioè senza avere un piano B che utilizzi in certe partite, in certe situazioni, il Napoli non va lontano, secondo me. Pensare di nessuna squadra potrebbe andare lontano senza fare un po' di turnover nel calcio moderno, per come accade. Esatto. No, ma è la partita di ieri, forse, tra col senno di poi, proprio per evitare la polizia di terrismo, forse non era l'altra. Sì, poi ragazzi, vi dico un'altra cosa, poi voi commentate quello che volete. Allora, il capitano, anzi, vi faccio sentire Sarri. Sarri su Hamsik, questo. Io penso che Marek attraverso un momento in cui non è brillantissimo, ma questo succede a turno un po' a tutti i giocatori. Se devo essere sincero, stasera non l'ho visto anche meglio rispetto alle partite precedenti. Però come si diceva ieri, quando un giocatore chiede tantissimo, ogni tanto devi dare qualcosa. E quindi in questo momento è il momento di dare qualcosa a Marek, perché Marek ci ripagherà sicuramente. Perfetto, allora altro tema, quello di Hamsik. A me fanno imbestialire le critiche ad Hamsik, il fuoco amico su Marek Hamsik, capitano del Napoli, un giocatore che ha dato la sua carriera per il Napoli. In questo momento ha bisogno di una bodyguard come Allan, che recupera palloni, che gli sta vicino e che mette la faccia, il corpo e il fisico per Marek Hamsik. Ieri sera non c'era e questa mi sembra una discussione anche più interessante rispetto a Milik Milik. Questo è un tema, qui è mozione d'ordine, nel senso che è il solito tema dell'equilibrio, per cui tu hai Dybala che prima di Barcellona-Juve viene spacciato per uno che se la gioca alla pari con Messi, e poi il giorno dopo viene spacciato per uno che è un brocco. Questo è un tema di equilibrio nella vita, nella carriera di un giocatore. Hamsik ha avuto frasi così, non è Hamsik, ma certo, avuto un ma in questo momento va difeso, certo, non criticato. È la cosa più normale del mondo, conta nel lungo periodo quella che è la carriera di Hamsik, che è il contributo che lui dà ogni stagione, nella quale tra l'altro va in doppia cifra come numero di gol, quindi appunto. È chiaro che non è il momento migliore di Hamsik, su questo non c'è discussione. Può capitare, no? Aspetta Antonio, può capitare. Potrebbe non essere catastrofica, certo, non sarebbe blasfema, sono d'accordo con te. Antonio Giordano. Sta vivendo il periodo peggiore dal punto di vista atletico, non gli è mai successo statisticamente, lo diceva anche prima. Questa è la fase migliore della sua stagione sempre. Quando il campionato comincia a decollare, ed è strano, ma succede, rientra a pattinare agli umani. Ritengo che gli farebbe, secondo me, molto bene deresponsabilizzarsi per un momento e quindi finire in panchina, ma soltanto per riposare. Non sono d'accordo, Antonio. Cioè, deve giocare, deve riposarsi giocando, deve avere le bodyguard. Ok. Sì, va bene, ma non se lo tiri fuori adesso, legittimi le critiche, secondo me. Aspetta, fammi sentire Antonio, tanto tu stai arrivando, Pier, poi continuiamo la discussione. Ma secondo me delle critiche un giocatore a 30 anni oramai può anche onestamente ripulirsi le spalle come si farebbe con uno spruzzatino. Con la forfora, sì, ok. Però vai lì, una partita che non sia una partita in cui tu debba sentirti, come dire, prestato necessariamente dall'essere Hamsik, in cui stai in panchina, la guardi e poi entra a partita già sviluppata e fai gamba, fai tono muscolare, fai. Io non lo vedo come, come dire, una sorta di crocifissione. E credo che gli potrebbe far bene. Detto ciò, sono convinto che contro il Benevento giochi lui, e in questo momento, ora sì, è giusto che ci sia lui, perché ci sono partite che gli fanno bene. Certo, e anche certo, situazioni, certo. San Paolo è una di queste. Certo, ma questo condivido. Allora, Hamsik, come disse un giorno Mourinho a proposito di Ibrahimovic, gioca lui più altri 10. Gioca Hamsik più altri 10 nel Napoli, e Hamsik lo tuteli, lo proteggi. Io sì, penso, ma non lo mandi in panchina. Carlo, il punto secondo me è di equilibrio. Il Napoli ha iniziato la stagione in maniera straordinaria, probabilmente ha anche fatto un lavoro di carico per arrivare, certo, bene, Pierluigi, alle due partite, certo, del preliminare, certo, e adesso probabilmente ha un fisiologico calo fisico. Sì. Però... Hamsik sta vivendo un periodo sicuramente poco brillante. Non è che ogni cosa deve diventare un caso, cioè, dire... ma qua diventa un caso, Pierluigi, è questo il problema. No, allora, se diventa no, un caso anche diventa mediatico, caso perché... anche mediatico, lo tuteli, no? Sì, però voglio dire, noi siamo, cioè, mediatico che vuol dire? Pure noi siamo mediatici. Allora io ti dico che poi le partite l'ho viste, Hamsik vive una fase sicuramente non straordinaria, Sarri saprà come sistemare le cose, e non mi sembra un grandissimo problema. Io penso che la partita di ieri Napoli abbia persa sicuramente perché è stato fatto l'errore di tenere Mertens in panchina, e perché c'è un problema di approccio alla gara, certo, che proprio come era successo, certo, con Bologna e con l'Atalanta non è quello ottimale. Le parole di Sarri erano particolarmente indicative. Penso anche che sia una strada che Sarri inevitabilmente percorre, e si è diventato molto diverso dall'allenatore che 2 anni fa non faceva quasi turnover, certo, ha capito, certo, si rende conto, certo, che se vuole arrivare fino in fondo alle 55 partite deve ruotare gli uomini. Bene. Poi magari non lo fa sempre bene. E deve capire come farlo, forse magari era meglio col Bologna, col Benevento, forse era meglio così piuttosto che il contrario. Ieri sera giochi in Champions, giochi la prima in Champions, meglio andare con quelli che conosci, a mio parere. Comunque io saluto Antonio Giordano. No. Ragazzi, buona giornata. Ciao Antonio. Però Pardo non è ancora arrivato, aveva detto. No, Pardo è in itinere. Io sono a un centimetro dal tempo. Però se parcheggio mi perdi per 6 minuti. Quindi sto, no. Poi faccio un altro blocco al telefono. That's unbelievable. Unbelievable, Pardo. Dai, sali, vieni su, dai, ti aspetto, sono qui. Sì. Sai dove sono, sì, sai dove trovarmi. Ok, time out. Antonio Giordano, grazie. Pierluigi Pardo, ti aspetto. Traffico. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe. Tutti convocati. Sei in ritardo. Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta Tutti convocati. Bene, mentre Pardo sta arrivando, io saluto con enorme piacere, è un po' che non ci sentiamo, come è andata l'estate, Massimo Mauro, buongiorno. Ciao, buongiorno. Picchiamo duro? Picchiamo duro? Dai, sì, andiamo, dai, Max, picchiamo, vai, duro. Allora, cominciamo dall'argomento di qui sopra, Hamsik. Secondo me il capitano va difeso. Mediaticamente va difeso, in campo va difeso, fisicamente con le bodyguard come Allan non si può discutere. Hamsik, abbi pazienza. Sì. Sono molto d'accordo, anche bene, perché io qualche anno fa ho detto che se avessi preso un numero 10 avrei preso Hamsik, quindi è un giocatore universale, un giocatore... ma è un giocatore Massimo, tu hai giocato con 3 geni, come hai scritto in un bellissimo libro. Questo è un giocatore che ha dato la carriera e la squadra al Napoli e merita rispetto. Non accetto critica ad Hamsik, no, perché è giù, no, di, guarda, condizione, Massimo. Mi piace la parte romantica di quello che dici, però è importante sempre la prestazione, cioè lo sportivo deve sempre fare la prestazione, non può campare di passato. E Hamsik assolutamente è un giocatore che vedrai che sarà determinante per i risultati del Napoli. Quindi non farei un discorso su quello che ha dato, sì. Secondo me Hamsik darà tantissimo, certo, a Napoli, ha fatto bene Sarri a metterlo al centro del progetto, diciamo così, e vedrai che adesso questa sconfitta, insomma, c'è un po' di pessimismo, no, in questo momento, però vedrai che Amsic sarà protagonista. Sì, però Massimo, allora torniamo ai tre geni con cui tu hai giocato. Maradona, sì, quando non era in condizione, quando aveva i cazzi suoi, quando aveva problemi suoi, allora cosa facevano Bagni, cosa facevate tu, cosa faceva Crippa, cosa facevano Scudo davanti a Dieghetto, giusto? No, però non c'è, non puoi fare paragoni. No, non faccio paragoni, non faccio, faccio paragoni. Sì, no, ma non faccio paragoni tra Maradona e Amsic, non sto mica bestemmiando. No, capito, capito, ma è tutto un livello diverso, no? Quindi davvero sono contesti completamente diversi. Allora ci voleva tanta personalità per giocare a quei livelli, ci voleva. Ma poi veramente. Sei lì, Pier? Sì, qui perché Stai sempre parcheggiando, ok. No, se vedo giù ci metto 7 minuti perché sapete che parla enorme e il telefono non prende. No, ma io penso, anzi, come tutti i calciatori, come tutti i calciatori importanti, sarai il primo a sapere che non è una fase per il artista. Appunto, non è quello dell'intoccabilità, non c'è un'immunità parlamentare per Amsic, per il suo passato. Sono d'accordo con Massimo. È un giocatore che tornerà a essere utile, è un giocatore che in questo momento sta vivendo una fase di difficoltà fisica e ci si lavorerà. La parola chiave è equilibrio. Ti dico, è lo stesso discorso che riguarda Dybala, che il giorno prima sembra Messi, sembra Messi, il giorno dopo viene spernacchiato. Sì. Non può essere così, cioè, perché poi tu dici mediaticamente, ma siamo noi poi che facciamo anche parte di questo circo mediatico, no? No, no, ma sono d'accordo. Però allora cambiamo registro, lasciamo stare Amsic, su cui abbiamo detto già molte cose. Andiamo su con Massimo Mauro su storie da centravanti. Higuain, che gioca una partita scandalosa, secondo me, a par della vista, ed è stato rimbrottato giustamente da Allegri. Non puoi giocare così se sei Gonzalo Higuain e se sei la superstar della Juventus e se sei quello che deve tirarci fuori dai guai quando serve. Andiamo su Dzeko, che dice, poi ritratta sui social, che per me contano zero, ritratta, però dice... l'anno scorso avevo Salah e Nainggolan vicino a me che mi fornivano le munizioni. Di Francesco, stai all'occhio perché io non è che posso andarmi a prendere la palla a centrocampo. 3. Dries Mertens, che ieri sera doveva giocare secondo me al posto di Milik, perché il Napoli è abituato a giocare in quella maniera lì. Poi possiamo parlare di Amsic e di molte altre cose. Massimo. No, no, è vero. Io ho conosciuto, oltre ai numeri 10, Careca, Van Basten, esatto, esatto. Altobelli. No, il più scarso era Giordano. Sì, sì. Il che hai detto tutto, Max. No, ecco, cioè, che vi devo dire? Non sono quei giocatori adesso che si mettono sulle spalle i compagni e li portano alle grandi prestazioni. Nelle grandi partite ci vuole grande personalità, questo è il punto, no? Sono rimasti in pochi, onestamente, i giocatori così. O la squadra fa una grande partita, allora io divento protagonista, oppure io non ci sono quei giocatori che trascinano la squadra, tranne Messi, secondo me. Certo, Massimo. E Cristiano Ronaldo, certo, in alcune certo. situazioni facendo gol e non giocando bene, che non è cosa da poco. Altri giocatori non ce n'è. No, questo è chiaro, Massimo, però ci dobbiamo abituare, però anche Pierluigi era fatto una disamina, che ha visto la partita a Barcellona, ha fatto una disamina perfetta su Higuain, che combacia con quella di Allegri. Pier, Higuain non può giocare in quella maniera come atteggiamento, giusto? No, no, infatti l'atteggiamento sicuramente. Guarda, ieri ho avuto una piacevole conversazione telefonica con Enrico Tacchi e dopo due minuti ci siamo messi a parlare ovviamente delle partite e in particolar modo di Barcellona-Juve. E lui mi ricordava, ed è ovvio e condivisibile, che quando la squadra gioca male e produce poco gioco, i primi a soffrire sono gli attaccanti. Quindi una minima attenuante da questo punto di vista bisogna darla. Però ecco, l'atteggiamento di Higuain non è l'atteggiamento, è una condizione, mi sembra anche fisica, non è all'altezza in questo momento. Cioè, tra la partita di Dybala e la partita di Higuain dell'altra sera, secondo me c'è una bella differenza. Poi è chiaro che se devi fare il paragone con Messi, che secondo me è imparagonabile. Ma non ci sta, tu, no, allora, non puoi paragonare Messi allora, e Higuain. Allora dai. Perdi in partenza, poi nella partita stessa, poi no, Messi a Dybala. Però secondo me Dybala ha giocato una partita nella quale gli è mancata sicuramente la presenza sotto porta, gli è mancata un po' di personalità, un po' di sfrontatezza, ma ha giocato una partita secondo me abbastanza dignitosa, nel primo tempo anche buona, perché nel primo tempo nei 40 minuti la Juve ha giocato anche bene. Quello che secondo me colpisce della Juve è la difficoltà e la fragilità difensiva, cioè il fatto nuovo che può dare speranza alle altre, ovviamente siamo soltanto a settembre con le carte di Green Day, è proprio questo elemento della fragilità difensiva. La Juve senza identità aveva una grande certezza dietro, oggi ha delle gerarchie variabili che non si capiscono bene e ha una serie di giocatori che per un motivo o per l'altro, o perché sono troppo giovani, o perché sono avanti con l'età, o perché fisicamente non stanno benissimo, o perché non sono abituati a giocare con regolarità. Questo mi sembra il tema vero in caso Juve. Massimo, sei d'accordo? No, volevo aggiungere, se è possibile. Certo. Che io non ricordo un gesto di Maradona o Scirea o Paolo Rossi o Careca di atteggiamento, no? State parlando di atteggiamento. Sì. Cioè, questa è la differenza. I campioni di un tempo o i campioni in generale di solito sono di aiuto. Io di Maradona ho sempre detto che la qualità migliore era la generosità. Se tu eri in difficoltà in mezzo al campo, esatto, alzavi la testa e vedevi Diego che voleva la palla. Certo. Cioè, guarda, io non posso mai scordare quella scena, l'ho ricordata molte volte, di Diego con un giovanissimo Zola che tira le punizioni al centro di allenamento sotto la pioggia e si abbraccia con il ragazzino dentro al fango. Sì. Questo era Maradona. Questo è il punto vero. Perché Diego, se addirittura l'allenatore della Juve parla di atteggiamento sbagliato, credo che ci sia poco da fare, no? Questo è il punto. E quindi c'è bisogno che la squadra trascini Higuaín. Questo io, un giocatore in Italia che trascina la squadra, non ve lo saprei indicare. Beh, su Higuaín oggi Gazzetta ci ha fatto una pagina e c'è anche quel tema lì, che è un tema che aleggia sempre, perché Higuaín onestamente, e stiamo parlando di un attaccante straordinario, poi anche qui usciamo dall'equilibrio, stiamo parlando di un attaccante straordinario, stiamo parlando però di un attaccante che nella storia della sua carriera, sicuramente nelle grandissime partite, nelle finali, nelle partite di Champions contro le grandi avversarie, contro i grandi giocatori, diciamo che va molto quantitativamente meno bene che nella quotidianità. Pallido eufemismo, va bene. No, è un dato di fatto. Io dico scompare, tu dici fa fatica, io dico scompare. Allora, fammi chiedere ancora questa, Massimo Mauro, che poi saluto. A proposito delle difficoltà difensive della Juventus, è chiaro che questo tema riecheggia, Massimo. Riecheggia per le scelte dell'altra sera. Viene in mente anche, ok, la partita di Bonucci, ed è fatale, è un'associazione proprio mentale, no? Rugani che viene tenuto fuori, Lichtsteiner che non viene inserito nella lista Champions, magari possono essere anche queste piccole attenuanti, però la difficoltà difensiva della Juventus è evidente. Però intanto dice che Allegri e Marotta hanno puntato tutto sugli esterni e sempre con Pjanic, che dire adesso dico i due centrali del centrocampo, però molto sugli esterni. Bernardeschi, no, insomma vedremo un po' la storia. E sulla difesa si fidano di quelli che hanno tenuto. Io credo che se il centrocampo farà quello che pensa Allegri, possano giocare i difensori di adesso la Juventus. Però il centrocampo deve fare tantissimo, certo. Perché Pjanic e Khedira sono due giocatori straordinari, ma voglio dire, se devono difendere vanno un po' in difficoltà, ecco, quindi voglio vedere, ma la difesa è questa qui. Io non credo che adesso vedremo Overes, ma a me piace molto, è un giocatore che insomma la Juve a mio avviso ha ancora organico numericamente migliore, insomma, credo che solo il Napoli può stare a livello della Juve, perché sì, io do tantissimo valore al fatto che il Napoli non ha cambiato. Anch'io quindi mi metto alla pari, Juve e Napoli li metto alla pari. Alla pari è tanta roba, io non li metto alla pari, però metto il Napoli un'incollatura, come dicono quelli che si intendono di ippica, un'incollatura dietro la Juventus. Massimo, ti ringrazio, ciao ragazzi, sempre un piacere, ciao, un abbraccio. Piacere per me, ciao. Allora, ci fermiamo per la borsa. Intanto Pierluigi Pardo sale e poi parliamo con Clemente da Trieste. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti con voi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Allora, dalla fantasia del telefono alla realtà, Pierluigi Pardo. Sì, da, perché altro da qua fuori, perché ho fatto un quarto d'ora qua fuori, perché il palazzo è bellissimo, no? Bellissimo. Però il parcheggio è tipo almeno 2, meno 3, meno 4. Parcheggi quattro, complicati, sì. E poi si sale, c'è cioè questa cronoscalata nella quale io, che io faccio di corsa ovviamente, senza un minimo fiatone, però capito, è un po' impegnativo. Per cui adesso, senti che voce ho, sono arrivato da 4-5 minuti. Respira, fratello. Sì, c'era respira. Tutte le unità coronariche allertate, tutto a posto, tutto. Clemente da Trieste, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. A lei, dica. Allora, oltre una delle città più belle d'Italia, Pardo che è un intenditore condivide, Piazza Italia, Trieste, Genova, Napoli, Palermo, queste città. Dai. Catania, queste città di mare. Dica. Duca. Allora, oltre a un giudizio della partita di ieri, questo è più uno sfogo. Allora, se mi date giusto 30 secondi, vorrei parlare dell'attacco, centrocampo e difesa del Napoli. Sì. Allora, l'attacco, secondo me, con o senza Mertens, il Napoli produce sempre occasioni da gol. Ok, ovviamente con Mertens di più, però anche senza Mertens, con Milik, qualcosa si è visto. Quindi, secondo me, il problema non è l'attacco. Dov'è? Il problema è stato ieri, ma non solo di ieri, delle ultime 2-3 partite, e speriamo non più da ora in avanti. No, il centrocampo, non puoi far giocare i Hamsik, che gioca da 5, quindi al 50%, con Zielinski. Gli devi mettere vicino o sono Alan d'accordo. O Jorginho. Sono d'accordo. Se avete visto bene la partita, sono d'accordo. Tutte le ripartenze erano sempre in superiorità numerica. Clemente, quindi sono d'accordo. Sono d'accordo. Che non ha messo un blocco al centrocampo. Certo, non ha messo la guardia del corpo a Marek Hamsik, che è quello che dicevo prima. Ieri Zielinski si poteva farne a meno. Allan, che è uno fisico, che recupera palloni, lo metti. Allora, facciamo così. Adesso si gioca in Europa League stasera. Atalanta, Lazio, Milan soprattutto, sorvegliato speciale. Arsenal Colonia, da sentiamo non perdere. Voci. Iniziamo questa competizione in un girone che sappiamo difficile, perché c'è una squadra inglese, c'è una squadra francese, anche la stessa squadra di Cipro non è proprio un outsider, e quindi siamo pronti per misurarci con questa competizione. No bright lights, no big city. Per quanto riguarda il Vitesse, l'ho già detto il giorno dei sorteggi, che la squadra di quarta fascia, perché lì era stata inserita il Vitesse, a parere mio potevamo essere più fortunati, perché il Vitesse ha vinto una Coppa d'Olanda, sappiamo il calcio olandese, noi abbiamo un olandese come De Vrij, avevamo pure prima Hoeth e Kisna, che sappiamo che ci sono giocatori molto bravi, molto validi, quindi abbiamo massimo rispetto per il Vitesse, perché è una squadra con buoni giocatori e buone individualità. Sì, sicuramente dobbiamo dare una risposta temperamentale, al di là dell'aspetto tattico, al di là della tecnica, al di là della qualità del gioco, che quello non deve mancare, però il focus è sicuramente sull'atteggiamento e sulla rabbia, anche e soprattutto nell'essere compatti e nel riconquistare la palla. Allora, Gasperini contro l'Everton alle 19, Inzaghi contro il Vitesse alle 21, Montella contro l'Austria Vienna alle 19, e il segna sempre lui, come dicevano a Milano. Chi è? Ganz. Bravo. Maurizio Ganz, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao. Come va? Vai. Ce lo dici in lingua originale? Io ho sposato una milanese, ma come si dice? Vabbè, e segna sempre a Roma, io non sono mica milanese. Non lo so, però l'avrai imparato, se non lo sai dire tu, voglio dire chi lo dice. Scusami, Maurizio, scusa. Segna sempre, come si dice? Lui. Segna sempre lui. Vabbè, romano, sembra la Maurizio, sì, sembra la scena della Cadrega, lascia sembra stare, lascia stare. No, ho sentito interessante queste interviste, perché Gasperini chiaramente con l'Atalanta, che ha fatto l'anno scorso un campionato straordinario, si appresta a vivere questa grandissima favola. Sul discorso di per esempio di Inzaghi, che dice il Vitesse, ma il Vitesse è il Vitesse, se la Lazio vuole aver paura del Vitesse allora si può messi male, per me, per quanto ho sentito, e credo invece Montella che debba iniziare l'Europa League per tentare di vincerla, perché credo che il Milan abbia fatto un mercato per poter far bene in Italia sicuramente quest'anno, per tentare di arrivare nelle prime quattro di Champions. È chiaro che il Milan parte come squadra anche tutte le robe da battere, per me. Sì, poi vincere l'Europa League, Pardo ce lo può spiegare, l'ha raccontata mille volte. È complicato, perché è una maratona infinita, però va affrontata con intelligenza. Io, guarda, anche sul discorso Champions di prima, non credo che sia il momento di fare drammi e tragedie, perché è una gara veramente lunga, bisogna passare il turno e poi a febbraio comincia un percorso completamente nuovo. Però io sono abbastanza ottimista per questa Europa League, perché secondo me Atalanta e Milan, la Lazio sta bene e Atalanta e Milan sono due squadre che non possono, secondo me, sottovalutarla. Credo che a Bergamo stasera sia veramente una festa, una specie di festa cittadina. Una festa con una bolsa. Bella. Quindi, sarà difficile per siccome noi abbiamo avuto negli anni scorsi delle squadre che l'Europa League l'hanno giocata un po' con l'infradito, diciamo. E poi forse anche senza infradito non avrebbero fatto tanta strada. Però questa sensazione c'è stata. Invece spero e penso che non sarà così. La Lazio è in ottima condizione, secondo me. Anche se l'altra sera, per esempio, a Tiki-Taka Simone Inzaghi, secondo me, diceva una cosa giusta, cioè che il vero rischio di questa stagione è proprio la rosa, che magari non è così profonda per poter fare le tre competizioni. Sì, va bene. Intanto ha preso a sberloni in Milan, Maurizio. Alla grande, ha giocato bene, ma poi non dimentichiamoci la Supercoppa vinta. Insomma, è una Lazio che sta facendo bene, ma l'ha fatto bene l'anno scorso e sta continuando questo trend positivo. Inzaghi li fa giocare bene, la squadra ha tanta voglia, sono messi bene in campo e hanno giocatori davanti che fanno la differenza. Quindi è una squadra difficile da affrontare, ma non perché gioca male, ma perché gioca bene, è difficile affrontarlo. Senti Maurizio, passiamo ai numeretti. 3-5-2 di Montella mi sembra una soluzione imprescindibile in questo momento, no? Staremo a vedere, credo che sia partito per questo, con Bonucci sia partito per poter fare il 3-5-2, chiaramente mancando Romagnoli ha dovuto mettere la squadra a 4 con dei grandi limiti, perché chiaramente probabilmente Bonucci si trova molto meglio a giocare a 3, insomma giocare a 2 dietro fa un po' più di fatica. A 3 secondo me è determinante in fase difensiva, ma ancora più determinante nell'impostare l'azione con la tecnica. Chiaro, però lì davanti, di fase difensiva ok, ma lì davanti, insomma, Cutrone con tutto rispetto, però hai un arsenale in panchina, ci stiamo domandando da domenica il perché. Siamo d'accordo, ma c'è l'arsenale, ma se un giocatore come Cutrone, giovane, voglioso, ha giocato delle partite di qualità, di quantità e ha fatto gol, avrei deciso che ho tutta la vita di mettere in campo Cutrone. Forse non era la partita adatta con la Lazio, ma credo che se avessi giocato qualsiasi altro giocatore posto di Cutrone avrebbe fatto male. Perché insomma effettivamente il Milan ha faticato tantissimo in tutte le zone del campo. Sei d'accordo, io credo Pierluigi. Che in questo momento comunque col 3-5-2 finalmente riusciremo a vedere, è quello che io spero, finalmente un attacco a due punte, non come negli ultimi anni sempre una punta solo davanti. Io credo che il Milan debba giocare a due punte con gli straordinari giocatori che ha comprato. Bravo, esatto. Sei d'accordo? Sì, ma soprattutto per un vantaggio difensivo oltre che per un vantaggio offensivo, perché secondo me quel tipo di modulo è quello più adatto. Insomma, il Milan dal giorno dell'arrivo di Bonucci, secondo me esiste un pre e un post Bonucci. Con Bonucci secondo me devi cercare di sfruttare la qualità principale del tuo miglior difensore, dell'uomo che hai pagato 40 milioni e non è più un ragazzino, per darti un valore aggiunto, e secondo me la strada è quella. Ok Maurizio, grazie. Un abbraccio a tutti e due, grazie mille. Ciao, ciao. Segna sempre lui. Segna sempre lui. Non vi preoccupate che lo insegno a Pardo. Prova a dire lui. È quello il problema. Lui non sei capace. Non sono capace, no. Ah, non sei capace. È la lingua proprio che ti si intorcina la lingua. Segna sempre lui. Dai, andiamo. Pure la moglie milanese, Simo, segna sempre lui. Senta, ma di cosa mi parli sabato? Di trippa? Sabato abbiamo la puntata sul pomodoro con il professor Oldani. Ricordiamo alle 9 pomodoro. Sì, alle 9 del sabato e alle 20 della domenica in replica. Mangia come parli, grazie per questo spot. Prego, spottone. E avremo Pirozzi, sindaco di Amatrice. Che insomma, ma pomodoro in che, declinato in che senso? In tutti i modi sono i consigli di Oldani su come cucinarli, vari tipi di pomodoro. Poi c'è l'SS Oldani, la nostra segreteria telefonica con la gente che telefona e lui ti dà dei consigli, poi ci darà delle ricette, poi ci colleghiamo con Maurizio De Giovanni, perché sai che il pomodoro ovviamente a Napoli è... Vabbè, mi sta venendo una fame. Lo so, dillo a me. Non ho mangiato niente. Neanche pranzato. Neanche pranzato nemmeno io. Cioè non è che se io salto un turno mi faccio male, però vabbè. Traffico, dai. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Faircam Transport. Puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Tutti convocati. Il dato che ti riassume la partita è 44-19 a rimbalzo. Un esempio di strapotere fisico dove per molti minuti avevamo in quasi ogni posizione meno chili e meno centimetri, e soprattutto loro hanno appoggiato il gioco su Kuzmic e Marjanovic, e lì è diventato veramente difficile. Questo è Ettore Messina, Pardo. Hai visto la partita ieri sera? No, non l'ho vista, ho recuperato stanotte più che altro col Napoli. Perché era una scena bellissima, tra l'altro in galleria a Milano, ecco, non so dire sempre lui, ma era questa sempre scena lui. Fantastica per i 150 anni della galleria. E ho visto il Napoli stanotte, francamente l'Ital Basket l'avrei vista volentieri, ma il risultato mi aveva intristito. Come andare? No, a me no, a me non ha intristito. Io invece mi alzo in piedi e con orgoglio saluto l'uscita dalla scena di Ital Basket ieri sera. Certo. Che vuoi fare? Andrea Meneghin, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, Andrea. Allora, chi ha giocato a basket? Anche Pardo ha giocato a basket. Sì. Sa perfettamente. Metti e ridi, adesso dai. Fai una risata trattenuta. Ho giocato. Fra l'altro, io adesso ero tipo 1,84 a 12 anni. E 1,84 a 40 anni. Nella Stella Azzurra? Non mi ricordo. No, l'anno migliore è stato nel Master. Negli allievi del Master, l'ex Master Valentino. Sì. Quindi Derby con la Stella Azzurra. Andrea è giovane, non si ricorda. No, vabbè, ma ero scherzissimo. Meglio chiedere a suo papà. Non giocavo mai, ero scherzissimo. Sì. Però Andrea sa perfettamente. Allora, chi ha visto la partita ieri sera dice: ok, questi sono più alti, più grossi, più forti, ci fanno un mazzo così, vincono la gara. Sono contento per il nostro amico Sasha, che è mio amico e anche tuo. Però, onestamente, quello da spiegare alla gente è che giocare fisicamente contro questi qua, che sono più alti, più grossi, più forti, che fatica fai, Andrea? Fai un'enorme fatica, anche perché tutte le energie le spendi in difesa per cercare di contenere, soprattutto nella lotta a rimbalzo. I numeri che ha detto Messina sono spaventosi. 44-19 a 19. Poi 44 punti in mezzo all'area contro i nostri 18. Lì in mezzo all'area mi ha fatto avere una fatica immensa. In più anche gli esterni, tipo le guardie, le ali e anche i numeri 4 sono nettamente più grossi di noi, e a furia di tenerli, spingere tutto quanto, arrivi dall'altra parte in attacco, che fai anche fatica ad attaccare. Che sei il debito di ossigeno. Bravissimo. E poi giocando come giochiamo noi, che dobbiamo sempre un po', abbiamo la coperta corta in difesa, dobbiamo dare una mano sotto canestro, è molto dispendioso, e alla fine loro sono ben organizzati in difesa, anche no, sono eccezionali nelle rotazioni, nelle chiusure, nelle giocare tipi di situazioni difensive sui pick and roll, oppure con la palla in post basso o nelle altre parti del campo, ben organizzati, fisici, atletici, panchina un po' più lunga. Un dato anche importante è fatto come dalla nostra panchina siano usciti pochi punti, mentre da loro molti di più. 35 punti dalla panchina contro i 20 dalla nostra, senza nulla togliere i ragazzi che hanno comunque fatto un lavoro eccezionale. Però quando incontri uno più forte di te e provi a giocartela, ieri sera purtroppo non è andato bene neanche il nostro fantastico tiro da tre punti, il nostro modo di giocare un po' Spavaldo, perché sono stati bravi a limitare le nostre qualità, aumentare i nostri difetti. Certo, sono stati bravi in tutto, ma d'altra parte la Serbia è una squadra bene allenata. Ieri sera si è visto, al di là di chili e centimetri. Bene allenata, sì, anche con parecchie assenze, però hanno anche un movimento tale che gli permette di portare i giocatori che magari non sono conosciutissimi come quelli che erano assenti o i pochi presenti, come Marjanovic, Bogdanovic, Jovic, anche lo stesso Matchvan, che sono giocatori, però chi è venuto ha fatto un'ottima figura. Mi dite una cosa, cioè questa è una generazione, è vero che adesso in NBA c'è un accesso più libero di giocatori di altri paesi, insomma, rispetto a 20 anni fa, ovviamente. Però insomma è una generazione teoricamente di talento, fenomeni, no? Sì. Per il basket italiano. Che rischia di, cioè, ecco. di finire con facendo le rane un discorso, in tasca. Facendo un discorso non soltanto su questa esperienza, ma anche sul playoff di Torino. Cioè, la sensazione è quella di un talento buttato. Qual è il motivo? Il motivo è che comunque questi 4-5 giocatori poi in realtà si pestano i piedi uno con l'altro, non sono in tutti i ruoli, a copertura di tutti i ruoli, che al di là del fatto adesso Gallinari non c'era per i motivi che sappiamo. Beh, Bargnani, Gentile, eccetera, si sono persi per strada. Andrea? Sì, sono alcuni per infortunio. Il Gallo, vabbè, si è rotto la mano nell'amichevole, sì, del torneo contro l'Olanda, e vabbè, quello è un episodio a parte. Bargnani e Alessandro Gentile hanno avuto un'annata difficile tra infortuni, tra problemi. Anche non dico personali, però Alessandro ha cambiato 3 squadre in un anno, ha avuto problemi a una mano, e quindi questo un po' l'ha condizionato. Sicuramente lo stesso per Andrea Bargnani, che non era in condizione di reggere così tante partite una vicino all'altra. E poi scelte anche fatte nelle convocazioni, non dico assolutamente, come, secondo me la squadra era perfetta per affrontare l'Europeo così com'era. L'unica cosa è che le assenze delle altre parti, come ho detto prima, sono state sopperite molto bene. I giocatori che non hanno fatto bene in questo periodo, diciamo questa generazione di nazionale, non è riuscita ad arrivare nel 2015 per una partita sfortunata con la Lituania, cioè ha impedito di arrivare alle semifinali. Questo giro eravamo nettamente più deboli. Gli anni prima forse c'è da riguardare un attimino il mancato successo su tante situazioni. Siamo arrivati sempre lì un po' troppo spavaldi, non dico spavaldi, però con troppe. Sì, andiamo vinci la medaglia. Forse questo è un po' caricato di eccesso di pressione dei ragazzi, anche se alla fine della fiera uno vive di queste situazioni, di, certo, queste emozioni, quindi nascondersi dietro a questo mi sembra un po' limitativo. Mi sembra riduttivo. Andrea, ti ringrazio, ti mandiamo un abbraccio, io e Pardo. Ciao Andrea. Noi ci salutiamo invece, ci sentiamo domani. Certo. Ci vediamo domani. Meraviglioso. Ciao Giorgio De Luca, ciao Gianmarco Ferronato, ciao a tutti, domani 14, tutti convocati. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!